intanto a ricordarvi che oggi sono 7 mesi, primo di marzo, sono 7 mesi da quel maledetto primo agosto in cui veniva fatto sparire forzatamente Santiago Maldonado. 7 mesi che hanno rappresentato i primi 78 giorni, l'incubo vero di non sapere che fine avesse fatto, di dove fosse, la poca chiarezza della ministra di sicurezza, della gendarmeria stessa che rompeva nelle comunità come se fossero le vere colpevoli. E ricordiamo, per arrivare al punto, che Santiago Maldonado si trovava appunto a Cushamen a solidarizzare insieme alla comunità di Cushamen, che si trova appunto nel territorio attualmente occupato da Benetton, quella parte di 900.000 ettari di Patagonia che sono quelli della Benetton, ma che arrivano a essere quasi 1,5 milioni, se contiamo anche le società in cui ha le mani in pasta. E veniva appunto poi ritrovato morto nel posto dove nel fiume, appunto accanto alla comunità di Cushamen, il Pool of Resistenza, dove per mesi l'avevano cercato e palesemente non c'era. Santiago Maldonado in quei giorni manifestava per la liberazione di Facundo Gionesuala, che era stato durante tra l'altro una cerimonia mapuche, quindi in una maniera abbastanza violenta, durante una pacifica cerimonia era stato arrestato per la seconda volta perché veniva chiesta la sua estradizione dall'Argentina al Cile sotto un accordo che il presidente Macri aveva stretto con la presidenza, cioè con la presidenta socialdemocratica Emmanuel Bachelet, per appunto estradare Facundo Gionesuala. Estradizione che già era stata chiesta una volta, che già una volta era stata negata, perché Facundo viene, diciamo, accusato per dei reati commessi, quali appunto l'incendio a una portineria, diciamo alla casa del custode di questa grande tenuta che si chiama Pisupisue, mentre lui si trovava invece nella comunità di Pimaiken, che era una comunità che stava resistendo, anche questa in Cile, che stava resistendo alla invasione di una idroelettrica. Quindi Facundo viene processato in contumacia, viene assolto, viene richiesta la sua estradizione e questa estradizione viene negata. Ma questo evidentemente non vale per la giustizia argentina, perché di nuovo Facundo viene arrestato e già sono quasi 8 mesi che si trova in carcere, e solo ieri, chiaramente, insomma, capite bene che il carcere preventivo di 8 mesi sono molti e è stato abbastanza fatto apposta per aprire ieri, appunto nella giornata di ieri, la prima udienza che è durata quasi 10 ore. Facundo viene appunto prelevato dall'unità 14, da cui appunto abbiamo parlato al telefono, del carcere di Esquel, viene portato con un effettivo di polizia pari forse a quello dispiegato per il Chapo Guzman, e viene portato da Esquel a Bariloche, dove appunto viene accolta, intanto Bariloche è completamente militarizzata, viene portato a un processo che solo il giorno prima, per la pressione delle organizzazioni dei diritti umani, il giudice decide di fare pubblicamente. Innanzitutto questo, per motivi di sicurezza si dice, questo processo si è tenuto nel ginnasio municipale numero 3, quindi comunque in un liceo, in una scuola, nella palestra di una scuola, con all'inizio appunto solo alcuni giornalisti avevano ricevuto il permesso, chiaramente dei mezzi mainstream nazionali avevano ricevuto il permesso di partecipare, invece ieri mattina, poche ore prima dell'inizio del processo, le associazioni di diritti umani hanno fatto una forte pressione, quindi è stato non solo dato il permesso di far entrare la stampa e anche di mandare in streaming a livello nazionale il processo. Abbiamo detto, il processo sono state 10 ore di udienza in cui ci sono stati un inizio, abbiamo avuto un po' la possibilità di seguirlo, un inizio abbastanza comico, insomma sembrava veramente che non si volesse affrontare nulla, è stato chiesto a Facundo come si trovava col vitto e, insomma sembrava veramente una farsa totale, e poi si è entrati un po' più nel vivo, quindi dunque a chiedere tutta una serie di questioni a cui Facundo ha risposto in un modo molto particolare. Insomma, sappiamo che Facundo di solito rifiuta il confronto con persone che ritiene il loro nemico e approfitta di questi spazi per fare più delle dichiarazioni, approfittando di questi spazi mediatici anche per lanciare dei messaggi, e questo è un po' quello che in linea di massima è successo ieri. Chiaramente a livello giuridico è tutto un po' più difficile da vedere, intanto perché difficilmente verrà rispettata la giurisprudenza del posto, la sua stessa avvocata dice che probabilmente la sentenza che ci sarà lunedì è abbastanza già scritta, e questo però remerebbe completamente contro l'articolo 400 del codice penale, che sostiene che non si può essere estradati per motivi politici. Lui stesso l'altro giorno, alla mia domanda di come pensava che sarebbe andato il processo, perché ho omesso di dirvi che durante questi 8 mesi, oltre alla richiesta di estradizione, Facundo è stato raggiunto da altre piccole denunce che si sono sommate, una delle quali per esempio è stata fatta dallo stesso giudice che ha avuto in mano la causa per Santiago Maldonado, che poi si è dovuto dimettere perché era piuttosto vergognoso, il giudice Otranto, che ha pensato bene di denunciare Facundo per istigazione alla violenza. Facundo a questo ha risposto che quando è stato trovato il corpo di Santiago, che manifestava per lui sulla sua terra, nel posto dove lui va a prendere l'acqua tutti i giorni e dove tutta la sua comunità sapeva che non c'era, lui si è sentito così male che sicuramente ha fatto delle dichiarazioni alla stampa dicendo qualcosa fuori luogo, ma se la giustizia volesse anche contestualizzarli nel momento, probabilmente questa denuncia avrebbe un altro sapore. Lui invece chiaramente la legge come un'aggiunta al fatto che nel momento in cui dovesse cadere il giudizio per l'estradizione, lui avrebbe tutta un'altra serie di processi da affrontare in Argentina e quindi la sua detenzione comunque continuerebbe. Immagino che invece, se una volta lui dovesse essere estradato in Cile, dovrebbe affrontare la legge cilena, e qui sarebbe veramente pesante perché lui cadrebbe sotto la legge antiterrorismo, di cui abbiamo parlato spesso, questo refuso della legge Pinochetta, della giurisprudenza pinochettiana, che prevede tutta una serie di cose allucinanti, intanto che si possa tenere una persona solo per terrorismo in carcere per quasi 2 anni, ai processi si può partecipare con dei testimoni a volto coperto, insomma tutto ciò che riguarda l'ingiustizia di un processo di una dittatura. Quindi insomma capite bene che la posizione è dire pesante, è dire poco, e accanto a questa invece per fortuna Facundo ci risponde che non sarà il carcere a fargli piegare la testa, anzi lui da lì ha compagni intorno a sé con cui può parlare, a lui piace parlare col popolo dei diseredati, come lui definisce spesso anche la povertà del popolo mapuche, che poi gli ha fatto arrivare a questo ritorno e riappropriazione delle proprie terre. Io vi chiedo un secondo solo, di modo da comporre il numero della mia compagna Gellardin, e parlare appunto non solo di questo ma anche brevemente di questi altri due processi in questa settimana molto importante, direi, perché rappresenta secondo me anche una paura di questi due stati di fronte a un popolo mapuche che negli ultimi anni si sta veramente mettendo in forze e sta richiamando molta solidarietà. Quindi un altro momento di musica, sempre con Anarchia Tropical, e poi torniamo al telefono con la Rete Internazionale in difesa del popolo mapuche. Allora, come vi dicevo, io sono al telefono con Geraldine, la compagna milanese, della parte milanese della Rete Internazionale in solidarietà col popolo mapuche, grazie alla quale appunto, come vi dicevo, e torno a dirvelo, l'intervista che abbiamo fatto con Facundo Gionesuala, sono 25 minuti in cui io faccio delle domande in cui cerco un po' di far fare a lui il disegno generale di chi sono i mapuche, cosa vogliono, che cos'è la RAM, insomma, quindi credo che ne possiate approfittare per farvi così un'infarinatura un po' della resistenza del popolo mapuche, e in particolare di chi è Facundo e di cosa gli sta succedendo. Intanto Geraldine, grazie e ben trovata. Grazie a te, grazie a Radio Onda Rosa come al solito per darci la possibilità di parlare sulla lotta del popolo mapuche. Allora, io ho descritto un po' quello che è successo ieri nella giornata della prima udienza del processo di Facundo per l'estradizione, e abbiamo appreso oggi che finirà lunedì prossimo, quindi che Facundo verrà portato un'altra volta con questo dispiegamento veramente infinito di forze di sicurezza, con l'elicottero, con lui col casco, giubbetto antiproiettili, e verrà portato di nuovo da Esquel a Bariloche per sentire la sentenza. Però ho parlato molto, diciamo, delle leggi, di qual è la sua condizione giuridica, e ricordando appunto, ho aperto ricordando che oggi è anche un nuovo anniversario giustizia e verità che ancora ci mancano su Santiago Maldonado, ma sopra il nemico, la bestia, come la chiama Facundo, più grande in cima a tutto questo è Benetton, è inutile negarlo. Sì, sì, certo, sì. Prima cosa che è sempre un dovere politico sottolineare e ricordare che Santiago era lì per Facundo e per la libertà di Facundo, a sostenere questa comunità Mapuche de Cusamen. Quindi ricordare sempre che lui è un solidale come noi e ci teneva a che Facundo fosse liberato, perché giustamente un compagno che porta avanti una lotta anticapitalista della quale Santiago aveva una coscienza molto, molto grande, molto forte come noi, e quindi anche noi come solidale continuiamo a ripetere e ricordare che sicuramente il giorno che Facundo sarà liberato sarà una goccia di giustizia che arriverà anche per Santiago in tutta la ingiustizia che si sta ancora portando avanti nel suo caso. Per quello che dicevi te, anche Benetton, noi ricordiamo che è il grande responsabile di tutta questa violenza capitalista nelle comunità Mapuche di Cusamen, è proprio il responsabile della prigionia politica di Facundo Walla insieme a Macri, perché la scusa infame e l'estradizione, che come hai detto bene te, non sussiste perché non si può giudicare né processare una persona due volte per un reato politico, e invece con Facundo lo stanno facendo ugualmente, e quindi noi sappiamo che solamente l'scusa, perché Facundo è una figura forte, leader politico di questa comunità che porta avanti la resistenza contro Benetton, quindi per loro è comodo toglierlo di questa resistenza, perché Facundo, diciamo, impide insieme alla comunità che i loro interessi vengano a un buon fine. Noi lo ribadiamo, lo diffondiamo e lo denunciamo qua come Rete Internazionale del Popolo Mapuche, perché ci deve essere la coscienza che questa è una multinazionale italiana, e noi, anche io se non sono italiana, vivo in questo paese. Ritengo che c'è una grande responsabilità di chi vuole far finta di che Benetton in questo momento sta combinando veramente disastri grandi, no? Ma non solamente in quanto a devastazione, in quanto a sfruttamento del territorio delle persone, ma anche alla persecuzione politica, che incarcera compagni come Facundo, che assassina compagni come Santiago e come Rafael Nahuel. E quindi questo non lo dobbiamo dimenticare, anzi lo dobbiamo denunciare, lo dobbiamo portare alla visibilità, perché se non lo facciamo noi diventiamo anche complici di questa violenza capitalista, e anche diventiamo complici di questo sistema del quale proprio noi non vogliamo far parte, e ovviamente non accettiamo queste condotte. Senti, tra l'altro invece passiamo dall'altro versante della cordigliera, questa è una settimana molto importante, no? Cioè, diciamo, noi parliamo del popolo Mapuche, poi ci fa difficoltà dover parlare di una parte e dell'altra, perché poi il trattamento dei due stati verso il popolo che vive in questa terra, che occupa sia il Cile che l'Argentina, è molto simile. Invece è stata una settimana molto importante perché nel, diciamo, movimento mediatico che segue l'operazione Huracán, che lo ricordiamo è un'operazione di magistratura che ha svelato, diciamo, la manomissione di alcune prove da parte del Corpo dei Carabineros in processi che vedevano imputati dei Mapuche, quindi per essere sicuri che venissero condannati. Quindi è esploso questo scandalo che tra l'altro ha creato una guerra abbastanza profonda tra la magistratura, appunto, e il Corpo dei Carabineros, mentre appunto la prensa, la stampa parla tanto in questi giorni dell'operazione Huracán, intanto sono ricominciati due processi molto importanti, quello del cosiddetto caso Lusinger Macay e il caso Iglesias. Nel caso Lusinger Macay, lo ricordiamo, un incendio in cui perdono la morte questa coppia di terratenenti che avevano appunto ereditato da generazioni questa terra, e incendio che succede in maniera molto sospetta. Non è una famiglia unita, non è una famiglia in cui tutti gli elementi si amano. Questo caso diventa molto particolare, vengono denunciati per questo reato la Macilinconao, di cui appunto un anno fa abbiamo seguito la battaglia per il diritto ai suoi domiciliari, quindi una mace, una rappresentante spirituale di quasi 70 anni e altre 10 persone. Un processo anche questo che quando è iniziato poi per dei cavilli è stato annullato, di modo che quella che sembrava ormai arrivare come una sentenza di assoluzione diventasse invece un processo che ricomincia da capo, no? Sì, sì. Allora, la cosa importante di che in tanti non lo sanno, noi non lo sappiamo perché seguiamo questa lotta a fondo, che sono tutti i processi a base di montaggi giudiziari. E sono tutti processi dove non ci sono prove e non ci sono testimonianze vere. E quindi tutti questi casi purtroppo sono uniti di questo infame, fatti. Perché nel fondo di tutto questo non c'è niente. Il caso l'operazione Huracán, come hai detto te, era che è stata si è svolta in questi ultimi mesi, pretendeva attraverso della manipolazione di informazione, per essere più specifici, più chiaro nel minimo, hanno sottomesso sui telefonini di certi compagni Mapuche per dire messaggi che sono stati sottomessi per dire per WhatsApp e che loro non avevano mai scritti. Attraverso diverse loro sono stati detenuti, sono stati fermati in carcere per un periodo fortunatamente corto, perché un giudice ha ordinato certe investigazioni, è venuto fuori che Carabineros de Chile di quella zona lì aveva intervenuto su questi telefonini manipolando e scrivendo loro, mettendo lì questi messaggi che parlavano di guerriglia, parlavano di armamento, parlavano di azioni, di tutto quanto, che non era vero. E questo si conferma ancora una volta come i montaggi giudiziari dello Stato cileno e dei suoi apparati repressivi sono quelli che portano in carcere i nostri e le nostre compagne Mapuche. E questo è anche il caso adesso della Maci Francisca Linconao, che sono anni di battaglia legale, nel quale lei tra problemi di salute, tra la sua età, tra il fatto che è una figura importante del popolo Mapuche, come hai detto te, una Maci che è una autorità spirituale del popolo Mapuche, continua a essere perseguitata, criminalizzata, liberata, resa domiciliare, avanti e indietro, e oggi nuovamente, che se pensava che era libera, viene nuovamente chiamata in causa perché la famiglia Lusinger ha fatto ricorso, il potere giudiziale cileno l'ha colto, e adesso per la seconda volta ricomincia tutto da capo un lungo processo giudiziale in contro della Maci e in contro delle altre 10 imputate di questo caso Lusinger Mackay. Tra l'altro, come diceva prima, sì, appunto, volevo ricordare che tra l'altro tra questi imputati molti hanno fatto anche uno sciopero della fame abbastanza devastante, questo per richiedere che il loro processo fosse derubricato dal termine di terrorismo, proprio per riuscire ad avere un processo giusto, sì. Perché altrimenti all'interno di quella legge uno può far testimoniare chiunque che ha visto qualsiasi cosa, tu non saprai mai chi è, e quindi anche un bambino di 3 anni può aver fatto esplodere la bomba atomica, insomma. Sì, appunto, diciamo che sono delle condotte veramente allucinanti da parte dello Stato cileno in quanto questa legge antiterrorista che comprende queste caratteristiche. È il caso anche perché, come detto prima, questa settimana è una settimana molto agitata nel Puelmapu, che è la parte argentina, e nel Huelmapu, che è la parte cilena, in quanto a udienze e processi politici dei nostri compagni, perché ci sono già quello di Facundo nella parte argentina, e la parte cilena c'è la Maci Linconao, e c'è anche il caso Iglesias, che vede imputati tre fratelli Trangol, e un lonco che come Facundo è un'autorità politica, Alfredo Trangal. Anche loro stanno facendo un carcere preventivo da 1 anno e 7 mesi, e da 1 anno e 7 mesi questo processo non è ancora iniziato. Sono loro che più che gli altri prigionieri politici che hanno fatto un lungo sciopero della fame. Sì, Ariel Trangol ha veramente rischiato la vita, cioè più di una volta ha rischiato veramente di non avere niente di più reversibile, ecco. Sì, perché loro hanno fatto quasi 150 giorni di sciopero della fame e a un certo punto alla fine di settembre lo Stato cileno aveva detto basta, ne parliamo, dialoghiamo. E, diciamo che si aveva creduto a questo accordo che diceva che loro non sarebbero stati processati sotto la legge antiterrorista, e invece non ha cambiato niente. Ariel ha ripreso subito, infatti Ariel non ha mai smesso di farlo ciò, però perché lui ha detto che non credeva fino a che non vedeva gli fatti, invece gli altri tre hanno smesso di farlo ciò, però Ariel fino a due settimane fa era ancora in sciopero della fame, però per le sue condizioni, perché erano veramente estreme, le condizioni umilianti che vengono sottoposte i compagni Mapuche da parte dello Stato cileno. Lui ha dovuto sospendere questo sciopero della fame perché, a parte che la sua salute era a rischio della propria vita, e le sue persone più vicine, più cercane, anche il suo avvocato, ovviamente deve stare nelle condizioni di poter affrontare un processo che l'altra volta non ha riuscito a affrontare, perché abbiamo visto nelle foto che lui ingressava in una sedia a rotelle come gli altri e in stato veramente allucinante. Quindi tutti questi casi hanno in comune, purtroppo, che sono montaggi giudiziari e non hanno testimonianze vere, non hanno prove. Questi sono compagni che sono dentro in carcere senza nessuna prova in contro, e quindi per noi questo è umiliante, è disperante, perché la giustizia non è mai stata, penso che in nessuna parte del mondo, non c'è neanche in questo momento, ma in Cile veramente si continua a applicare una legge antiterrorista lanciata da Pinochet. E Pinochet in quella legge che è scritta nel 74, che è stata promulgata e è stata ratificata, perché tutti i governi successivi, nessuno ha abolito questa legge, continuano a applicarla contro il popolo Mapuche nei processi. Sono processi lunghissimi dove è previsto il carcere preventivo, che puoi stare dentro senza avere un processo. Nel caso di questi compagni, un anno, sette mesi, che sono incarcerati e il processo non comincia. Ci sono testimonianze che vanno a testimoniare incappucciati, quindi tu non sai chi va a parlare davanti al tribunale. Sì, e tra l'altro quando non sono incappucciati, per esempio come nel caso, mi sembra, del caso Lusinger Macae, no? In parte la denuncia è stata fatta perché un compagno Mapuche è stato preso, torturato, minacciato, obbligato ad avere una testimonianza, e appunto il fatto che poi avesse il coraggio di ritrattare invece di denunciare i nomi dei carabinieri che l'hanno torturato facesse un po' saltare tutto, e quindi lì è crollato tutto questo costrutto e si è dovuto un po' ricominciare da capo. Sì, infatti, perché fino ad oggi diciamo che anche la tortura viene applicata ai compagni e alle compagne Mapuche per farle testimoniare in falso, farle firmare i documenti, perché vengono minacciate le proprie famiglie. Quindi di fronte a questi fatti loro devono tante volte fare queste testimonianze false. Solo che, come hai detto te, nel caso della Maci, uno di questi imputati dopo qualche udienza ha detto la verità, che lui era stato minacciato, torturato della PDI, che è la polizia di investigazione in Cile, perché avevano minacciato la sua famiglia, i suoi figli. È saltato un po' la cosa in quanto al caso di Lucinia Macae, però dopo un po', come vedi adesso, se ricomincia tutto da capo. E quindi diciamo che la situazione giudiziale in Cile non ha cambiato niente in quanto lo che era la dittatura contro il popolo Mapuche, e questo veramente ci dispiace tanto, perché ci sentiamo tante volte, come si dice, impotente nel fatto che è tutto così chiaro, ci sono le prove che dimostrano che loro non c'entrano niente, invece loro continuano a mettere in pratica il suo abuso di potere. E quindi questo a noi veramente, come umani, come compagni politici, noi per questo che sosteniamo a tutti questi compagni e queste compagne, perché sappiamo che veramente stanno pagando la lotta contro il capitalismo, la lotta contro il fascismo, attraverso una prigione che non solamente dura, è una prigione che è proprio fascista. Va bene Jerry, io direi che comunque noi teniamo l'alta l'attenzione intanto su quello che succederà lunedì prossimo, che sarà una giornata quantomeno importante per sapere le sorti di Facundo. Io sentivo che l'avvocatessa non era molto così, era abbastanza spaventata, pensando appunto che la sentenza sia già scritta, anche se noi sappiamo che la libertà dell'onco Facundo sarà difficile, anche se l'estradizione dovesse essere negata, no? C'è anche un disegno. Sì, no, a qualsiasi evenienza, diciamo. Sì, no, l'avvocato infatti ha detto che tecnicamente il processo dovrebbe essere annullato, perché sì, Facundo viene estraditato in Cile, vuol dire, ha detto, che giustamente non si ha rispettato lo giudiziale e si sta punendo lo politico, capito? Esatto, esatto. Perché non esiste proprio. Quindi, però dall'altra parte io te devo dire, Marta, che tu hai parlato con Facundo, io ho parlato con Facundo, l'ho sentito un'intervista che ha fatto lunedì, e lui è uno che ti trasmette quell'energia di che sembra che non uno proprio in galera, no? È proprio Weciafe. Sì, è proprio un Weciafe, proprio un guerriero, perché diceva in questa intervista lunedì, 2 giorni prima del processo che si è svolto ieri, diceva, se mi mandano in Cile va bene, e mi troverò con i miei vecchi con i vecchi pegni che ho conosciuto lì, allora almeno mi pagano un biglietto gratis, qualcosa così, no? Allora questa cosa a me mi lascia un po' anche perplessa, perché Facundo così e spiazza tutti con le sue parole. Infatti oggi leggevo di qualcuno che diceva che il discorso di ieri che lui ha fatto, la sua difesa che lui ha fatto ieri, era solo intelligenza, e io veramente ci credo, perché è uno che spiazza tutti con le sue parole politiche, umane. Per quello noi ci teniamo tante, almeno io ci tengo tanto, che lui sia liberato, perché è una persona piena di integrità, piena di come si dice, di conseguenza politica, e questo paga tanto, perché lui e la sua comunità l'ha detto, noi non siamo mai andati a transare la nostra terra, a vendere la nostra dignità, noi siamo stati sempre lontani dai partiti politici, siamo stati sempre lontani dalle istituzioni del governo, perché la nostra lotta autonoma e con le nostre mani, con la nostra forza difenderemo il nostro popolo del capitalismo. E quindi per quello che noi ci teniamo tanto Facundo, che si è liberato, e la teniamo tanto contro Benetton, perché lui veramente le sta combinando grosso in territorio Mapuche. Va bene, allora noi comunque terremo alta l'attenzione su questi processi, anche se sappiamo che quello della Maci durerà parecchio di più, insomma capiremo che cosa succede nei prossimi giorni. Io ti saluto, ti ringrazio e ci sentiamo presto. Sì, grazie a te nuovamente, spero di vederti presto, no? Di sentirti presto. Sì. E Maricigüeo, come dicono loro, 10 volte venceremo. Maricigüeo, grazie. Maricigüeo. Ciao Jerry, un abbraccio. Grazie a voi, ciao.